su questa collina afosa, assorbimento di luci fini, l'inaridirsi dei miei confini mi guasta il fisico. E riconosco il sole soltanto grazie a un auricolare innesto di clavicembali temperati su violini e viole. Ed il mio volo finisce qua, sulla noia che è volata sulla croce di collina di quest'epoca. Sulla noia che è volata sulla croce di collina di quest'epoca. Ed un saluto ai preti, dai frati e vescovi, dalle perpetue al Papa. Non gli ho mai rivolto la parola. Il volo di un Dio è mille anni luce dagli esseri umani. Volo solo statemi lontani. Volo solo statemi lontani. Con le vostre astronavi. Tornerò a Betlemme per rinascere in un presepe nuovo e rimboccate coperte non ancora velate di sangue d'odore di rogo e la verginità. La mia madre nessuno l'ha mai chiesta, figuriamoci chiederla a te, beato chi resta. Nella mia nave ripartirà. Sulla naia che è volata sulla croce di quest'epoca malata. E la filosofia mi lascia abbastanza indifferente. Smettete di pregare per me, smettete di pregare per me, non chiedetemi niente. Smettete di pregare per me e non chiedetemi niente.